sapone nell'aria. La mia vita è scivolata nella tua, amore che ammala. Labbra che non si baciano, ma inveiscono. Stasera magari ritorni e vuoi andare a ballare, mi trovi più bella, vuoi fare l'amore nel modo più dolce che so immaginare. Ed io mi preparerò un argomento interessante, non me ne frega niente, se ho sbagliato ancora io farò finta di niente. Ti guardo, io ti controllo. Tutto quello che provo a fare per te non serve al decollo. Mi fai sentire piccola, come se dovessi stare zitta ad ascoltare te. Vuoi insegnarmi la vita? Il cuore si precipita e poi ripartiamo come sempre. Stasera magari ritorni e vuoi andare a ballare, ma non mi frega niente. Ci impara.